Abate? Sono io, e tu chi sei? Oh, io sono Antonio, sono Natali. Lo so che sei Antonio. Però un attimino, Natali. Ehi, sono qua. Natalino, qua come le Puggioni? Vai, vai, Luca Puggioni, qua come? Avanti. Ma tu? Oui, buonasera. Beh, riparato tu sei? Eia. KK, eia, eia. E poi, cosa ti volevo dire? Qual caso ho trovato la via di tu? Cosa? Qual caso ho trovato la via di fuori? Qua arriva un bel male, Franco, lo capisco. Il capo? Eia, qual caso? Ho detto, ho trovato la via di... Non mi ricordo che capo è. Mi avevi chiesto il capo per l'antenna. Ah, no, va bene così, tanto lo sto piazzando adesso. Va bene. No, perché volevo fare un nuovo ordine io. Così che volevo sapere. Va bene. Ok. Luca, avanti la frequenza, avanti. Cazzo, un bel basso, Natalia, ci sei? Ehi, dai, sto in ascolto. Che ho acceso il computer e sto guardando una cosa. Ok, dai. Magari chi c'è sotto? Natalia. Ma tu lo senti questo qua sotto? E lui di propagazione c'è anche. Ehi, lo so già. Attento, amico, cappa! Grazie, Natalia. Chi è avanti? Mandami un messaggio che non c'ho più il tuo contatto su WhatsApp. Cappa. Ogni tanto mi si cancellano, ma non so perché. Beh, compagniero, Samini ci ha il guro. Antonio, sei... Luca, beh, ti arrivo lì la veloce. Bene, forte e chiave, sto avvertendo che sto uscendo al tu. Per me è già la zona arancione. Sul DB del più 30 tocca. Eia, fai. 1 e 3 prova. Sì, sul 3 del più 30. Quella ieri la pizza è andata male perché Maria si è dimenticata di mettere sotto e stava cucinando solo sopra e praticamente è uscita un po' bianca sotto, vabbè, là. Devi metterla a due resistenze. Infatti siccome non è un po', come si dice, un po' funziona bene, non funziona bene, però è un po' consumato dove comuti, no, per mettere sotto e sopra. E ha sbagliato, ha messo solo sopra. Ma c'ha più conta sopra che sotto, no, a me mi è uscita perfetta, mi è uscita. Già l'ho vista, proprio bella tua uscita, bella veramente. È come le pizzette uguali alla fine, no? Allora cosa ti dico, questa sera ne faccio un'altra. Ancora, ma hai messo, quante mozzarelle hai messo, una o due? Che cosa? Quante mozzarelle hai messo, una o due? Due? Bravo, se no è bocca, due già vanno bene, tre sono troppe, se no... Ma le fai asciugare tu prima queste mozzarelle, se no ti esce un bel acquosa. No, le ho fatte asciugare un pochettino, no, mi ci sta perfetta, mi ci sta. E qua non è tardi, metti nello scotto, se le fai asciugare un po', se no esce un bel acquosa. Già non so già. E aspetta un attimo, mi sto mettendo le mutande, aspetta. Ah, che bello! Tutte le mutande! Ah, tu, propagazione a 45, cioè, prova a chiamare, vai. Lasciami lì. Cos'è questo bordello? Dai che abbiamo un po' di potenza qua, Facciamo i bravi! Ora! Facciamo i bravi qua! Se no Antonio Bombo lo fa da cattivo, fa! Attenzione, binario 10, copiate Antonio, cambio! Via K, buonasera, qui Antonio La Sassari dalla Sardegna che fa chiamata! Avanti! E K, date una regolata, sta arrivando un pochettino basso, comincia a accendere i motori, qua! Addirittura 9 ti arrivo, da che città stai chiamando? Cappa, salutoni l'amico di Lecce, io sono qua dalla città di Sassari, che ti super cordializza, avanti! Cappa, anche tu non mi arrivi, Santiago 5 mi arrivi, e non si è aperta bene la propagazione per la Sardegna, forse è aperta verso più di te che di me, comunque quasi una cannonata sei, Cappa. provincia di Lecce, avanti, avanti, qua la Sardegna che ti cordializza, Antonio il bombolo che ti fa chiamata, avanti. Attenzione amico, ci ascolti qua a Pedisrella, Sardegna, Luca Pedisrella, cambio. Buongiorno, saluti, Luca qua, Sassari, Nord Sardegna, ascolti Luca Pedisrella qua, cambio. Paolito sei tu, non io. Da dove stai modulando amico? Ok Vicenza, ti ascolto, dai, segnale 5 qua. Le mie condizioni sono precarie, capito? Avanti Antonio Bombo, la Sassari. E K, salutoni l'amico di Vicenza, qui Antonio Bombo che fa chiamata dalla città di Sassari. K, sei molto basso il segnale, sì, comunque appena appena ti tiro fuori, cambio. Finché che si rode, cazzo. Vedi santo, guarda, avanti dentro nel terrazzo arrivo, visto? No, non c'entra niente, no. No, ma rende tu, la boomerang sul tetto rende, fidati. Più posizione hai, più rende. E K, ho sentito l'amicaccio dal Veneto, avanti. K che ti scuccio qua da Vicenza, buonasera, ben sentito. Come ti arrivo lì a Vicenza? Bene, bene, arrivi bene, sei Santiago 5, Radio 5. K, ci dovrebbe aprire un po' di più, ma già non fa niente. Io ho un pochettino di birra sotto, però già va bene, dai. K, io sto usando una Ringolemme, sto utilizzando. Bello il tempo qua in Sardegna, tu com'è? K, mi si è sparito l'amico di Vicenza, Il tempo qua è bello se mi senti. Avanti che ti mando un amico da sempre dalla Sardegna, Luca, avanti Luca. K, qua bella la giornata, 20 gradi qua in Sardegna, c'è anche caldo, dai. Ormai è tempo brutto, è andato a farsi benedire. Ritornerà verso ottobre, novembre il tempo brutto. Avanti amico di Vicenza, da questa parte Luca Pedisrella, il tuo nome qual è? Minchia cazzo, nome a Vicenza arrivavo. Beh Anto, là, ti saluto che sto uscendo, vai, ci sentiamo dopo a casa, ciao, tanto già rimane la propagazione, ciao. Attenzione l'amico di Vicenza, copi il bombolo che fa chiamata KNK. Lo grecio mio, la mazza che te ne varia. Io c'ho una regolata qua ragazzi. Canecci, copiate Antonio il bombo alla Sardegna, K. Hola. Avanti, avanti, qua la Sardegna che fa chiamata, avanti. Attenzione, binario 10, binario 10, copiato Antonio il bombolo, cambio, cambio. Pega pesce bede giù me, come si dice in Sardegna. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Binario 10, copiate Antonio, che muto la Sardegna, brecco, brecco, avanti. Attenzione, binario, binario 10, copiate Antonio che muda la Sardegna, KK. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio, KK. Binario 10, copiate Antonio il bombolo che muda dalla Sardegna, dalla città di Sassari, cambio, cambio e cambio. Hola, hola, facciamo i bravi, dai. Vogliamo fare i bravi qua, eh? Attenzione, binario, binario 10, copiate Antonio dalla Sardegna che fa chiamata, KK. E vai, vai, ammasciato giù, parli. E vai, cucumedo. Qua, qua, male. E pure un giattino, ma va, avanti, te ci lo smitter, ti cucchieggia, e tu fallo scoppiare lo Smith, che vengo lì con la macchina. Povero te se vieni con la macchina qua sotto, non ti conviene, no? Ti faccio scoppiare il potenziometro del volume. Ragazzi, ragazzi, facciamo i bravi qua. Natalia, ti ho mandato una fotografia per renderti conto. Che ragazzi, adesso la guardo. Te l'ho visto poco fa, mi hanno risposto la Svizzera, Belluno, però non mi vengono proprio i dacchi, erano in truffica. Ehi, dammelo forse lo spazio. Siamo un attimo, se no, in occhi non andrà bene. Ora, ora, così va un po' meglio. Ehi, andrà bene. Dammelo forse io lo spazio, non ti preoccupare, Natali. Intanto sapere se gli alibi di quel ragazzo funzionano. O chi va, ci sono qui. Questa figlia è l'unica che potrebbe. Qua non ce n'è la protesta. Capito. Gappa gappa. Anda vedda. Adesso sono passato a poca potenza. Sì, anch'io, 4 watt. Anda vedda. Anda bene, meda. Oh, sotto a chi tocca! Avanti, chi è che modula? Attenzione, copiate la Sardegna che fa chiamata, K! Attenzione, attenzione, copiate la Sardegna fa chiamata, KK! Chi c'è il suo 10? 110, c'è qualcuno? Persone canale 10. Hola, 110. 110, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Hola? Avanti, chi è? Mobile, vado io. Ti sento male, Mari, come mai? Male mi senti, perché? Oh, ti sento tutto stranissimo. Il segnale è forte, 9 più 15, però la radio è tutta blu. Oh, boh. Non so cosa dire. Non è capito, non è un'attrezzatura per questo effetto. No, adesso ti ho ascoltato meglio, eri tutto metallico, tipo quando c'è qualcosa in corto, buh. Oh, adesso meglio va. Boh, di nuovo male, ti sento una voce lontanissima, come che stai parlando strozzato con il naso chiuso. Boh, forse rimane un po' schiacciato. Dimmi se così è meglio o se mi avvicino al microfono, così è più vicino al microfono. Prova a parlare. Allora, così è più vicino alla bocca il microfono, però così è un po' più lontano. Dimmi se è meglio o peggio. No, quando sei un po' più lontano è meglio. Perché c'è anche, mi pare, il processore inserito. Quindi dovevo togliere, ma siccome sono in macchina e mi viene male. Ah, ma sei in macchina adesso? Sto andando a lavoro. Poi ho le macchine. Dove sei? In che zona sei? Lontano. A Budoni. No, in macchina, dove sei? Ah, sto scendendo allo Burinto adesso, quindi sto andando a fare il 20 gasolio e poi proseguo. A Budoni deve uscirci. E allora? Per forza! Quest'anno ho scelto lì. Sì, cazzo, Budoni è lontano, da qua saranno 150 km. Non le faccio a piedi. Vabbè, anche se vai in macchina, per arrivarci ci vuole più di un'ora e mezza. Da dove passi? Da San Teodoro, cioè dalla strada nuova o da Olbia? Ma non è solo neanche a Olbia, è un po' prima di Olbia. Ti sto perdendo adesso. Ti sei abbassato un po' di segnale, adesso sei 9, però c'è molto QRM. Prendi la strada per Olbia e poi giri prima di Olbia la orientale sarda per San Teodoro, dai. Sì, diciamo che non faccio più prima di Olbia, c'è la strada abbastanza capita. Quattro corsie quella lì. Da lì sono 40 km più o meno, qua per il corso. Sì, l'antenna è l'altra 120. Elettrica, è entrata in questa posizione. No, ci passo spesso a quelle zone, le tante sono sempre in quelle zone lì, io già le conosco bene. Cosa volevo dire? Che radio è che stai utilizzando? È l'857 con la ricca metrica, l'alta 620, l'antenna dedicata. No, già ti sento bene, adesso c'è 9 più 20. C'è un bel di propagazione dalla Germania oggi, infatti ho fatto qualche collegamento, ma c'è troppa gente uno sopra l'altro, si schiacciano uno con l'altro. Che avanti, non ho capito, qua operatore Roberto, avanti. Quando è così la propagazione è una cagata perché sono uno sopra l'altro. E che antenna c'hai, Mari, sulla macchina? Atra 120, è un'antenna elettrica. È grande, è un'antenna grande? Sì, è un'antenna grande, abbastanza grossa, non è grande come altezza, però è grossa, volume, cioè si vede, si nota che non è un'antenna, capito? Di queste frequenze, capito? È quella motorizzata. Sì, io. Fatto qua una chiamata sul 10, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Nel frattempo, attenzione, canale 10, che vuole entrare. Vabbè, non si sente nessuno. Ma tu, Mari, non eri nel coso ecologico, il reparto ecologico, così? Non ho capito cosa faccia. Tu eri il settore ecologico, mi pare, Mari, così o sbaglio? No, manutenzione io sono. Di solito lavoro nei villaggi, anche per i fatti miei, però di solito faccio attività a villaggi turistici. Ah, non sapevo, io pensavo che tu fossi qua nel reparto ecologico, chiamiamolo, per non dire altri particolari. Esatto, sempre un lavoro, No, non c'entro niente con quell'attività. Faccio, ripeto, manutenzione da un po' di anni, ma un po'. Prima facevo idraulica, faccio climatizzazione, questa roba così. Ultimamente, gli ultimi po' di anni addietro, me li passa nei villaggi. Anche se adesso i villaggi sono tutti bloccati. Noi stiamo lavorando, vabbè, diciamo che siamo in manutenzione, stiamo preparando i villaggi. C'è parecchia gente anche, quindi al lavoro, voglio dire, perché da noi ci sono 14 villaggi da dove lavoro io, nella zona, immaginati. Saremo una quarantina di persone tra, vabbè, manutenzione, parlo, elettricisti, idraulici, falegnani, muratori, capito? Abbiamo un po' di tutto all'interno. Certo, in un villaggio per qualunque intervento devi avere le persone preposte, se no guai, basta ci rompere una tubatura, una linea elettrica, una qualunque cosa, ci deve essere sempre la persona adatta per intervenire. E no, già i miei amici lo stesso fanno quel tipo di lavoro, sempre loro giro vagando, dove ce ne vanno. È normale che vai dove c'è. Vabbè, pensa, l'anno scorso l'ho fatto in Sicilia, quindi immagina. Cos'hai fatto l'anno scorso? In Sicilia. Picca, io addirittura. Boh, sento gente sotto, ma non capisco chi sono. Sì, ne ho fatto all'isola Egadi, bellissimo posto, Favigliani, poi è stupenda come posto, ma è usa cambio. Quando si è abituato è normale, non succede niente. Quando arriva la gente ti dimentichi di tutto, capito? Disastro, delle zone, vabbè, funziona così. Poi ti fai amicizia, capito? C'è, insomma, la vita c'è, anzi forse anche meglio. Un'amica mia è sposata con un amico mio di Favignana, anche se vivono qua a Sassari da tanti anni, però sinceramente non mi piace il mare in Chivi, tutto scuro e la terra scura. No, sei bagliente, sei un bel bagliente, il mare è stupendo, perché tu pensa, l'isola di Favignana, sono tre isole, sono, il mare è perfetto, bellissimo, l'unica pecca che ha è che c'ha parecchie meduse, ma se non leva è cristallina, è come sentino, no? Il mare lì è perfetto, se c'è il mare aperto per forza è normale, no, Favigliana sono le tre isole Egadi, l'isola più grande è questa di Favigliana e quindi no, lascia stare, ti dico che, e poi a Marittimo per esempio, che è l'altra isola, fanno le, Carlovanne, adesso me ne ricordo più, fanno le escursioni in barca, che all'interno della montagna è tutto scavato, entrano con la barca dentro, ma ti sto dicendo che è uno spettacolo, è uno spettacolo. No, io sto parlando, la sabbia è scura, non è chiara come la nostra, per cui i colori sono più scuri, tutta la terraferma, perché è tutta roba vulcanica. Ma non lo so cosa dirti. Allora, quanto so io, non è proprio così, capito? Il mare è bello, la sabbia ha poca sabbia, che sabbia non ce n'è. Però comunque va bene, a me quello che mi interessa è il sushi, capito? Questo è, adesso vediamo qua, tanto a pagarsi pagano, quindi cosa ve ne affutti. È importante, Redina, che ti paghino il lavoro che fai, brutto, quando c'ho gli amici miei, hanno fatto un mese, questi amici lo stesso fanno queste manutenzioni, sono stati un mese a Londra, lavorando, facendo cose del genere, una ditta napoletana l'ha bruciato, Redina, non sono stati un mese lavorando come animali, dice, perché stavano sistemando questo villaggio, non so che cacchio, cosa stavano facendo, un mese lavorando mattina e sera, mattina a tardi, addirittura c'hanno anche la roba di là, che non gli hanno dato niente, neanche una lira, gli hanno bruciato tutto. Ma lì se li denunci, lì succede un po' tra tracchi, non pensare, no? Lì basta andare a denunciarli, li vedi, sai come pagano. Voi non è come qua in Italia, ci passano anni, no? Lì li bloccano subito. Sì, ma sono italiani, sono andati italiani a lavorare in Inghilterra e hanno invato tutto quanto le cose e gli hanno bruciato i soldi, loro li hanno denunciati, però vai a ciappare, sono irreperibili. Insomma, da comunque è un casino anche qua, ripeto, dipende da dove capiti, secondo dove cadi, guai, ok, bisseghiti, scusi, ma no, questa è una cosa, sono troppo grossi, non ha questo tipo di problema, infatti come vedi già stanno iniziando a preparare i villaggi, quindi penso un po', già stanno spendendo un botto di soldi, per prepararlo i pellacci, quindi. Non lo so. Ma tu quando sei a Sassa, di che zona moduli, Mari, che non mi ricordo? Io sono di Sorso, non sono di Sassari. Ah, io convinto che tu eri zona di latte dolce, figurati, allora già arrivavi abbastanza bene. Insieme a Franco sei tu, quindi, vicino a Franco. Ma diciamo vicino, no, io sono molto più basso di Franco, Franco è proprio in alto. Io invece sono basso, ho problemi, insomma. Ma ripeto, io di solito non è che utilizzo questa banda, capito? Ogni tanto, giusto per salutare, capito? Per ricordarmi i vecchi tempi. Infatti era molto che non ti sentivo, ti sto facendo queste domande perché non mi ricordavo, ero da un bel che anche a Franco lo stesso che non lo sentivo, l'ho sentito stamattina di sfuggita, vabbè che sto entrando poco anche io, c'è poca gente, pure poco tempo, però da te ero da un bel che non ti sentivo. Sì, non è che ho tutto questo tempo, capito? Non sto usando manco quello che ho io a casa per dirti, nel senso di... adesso ogni tanto in macchina ne approfitto. Poi vabbè, adesso sono qua al fornitore, appena finisco, registro che non è pure di Gasolio, speriamo che oggi finisca. Poi infatti ne vale 40 e vedo cosa c'è di buono, mi accompagna, perché lì insomma non assaggio, anche perché lì il segnale non lo perdi, invece qua insomma, come esco da Sassari, boh, non è più rifiuto. Ma c'è qualcuno perché di lì, in quella zona che modula? No, qualche camionista ogni tanto si sente, ma niente di particolare. Infatti ormai la CB si sta svuotando sempre di più. E adesso non si paga manco più il canone. Oh vabbè, già non è paghissimo, i raietti non entra, era 12 euro. Poi molta gente non li ha mai pagato di canone, erano tutti abusivi. Io l'ho sempre pagato, però sono soldi buttati, proprio una cosa inutile, non ho mai capito a cosa dovessero servire questi 12 euro famosi, per quale motivo servono. Tu pensa che noi ne paghiamo 5, è una miseria e si dovrebbero vergognare, però è così, 5 euro, nonostante tutto quello che fanno gli OM, capito, di servizi, di ogni cosa. Questo ha messo dentro i gasoli per difendere di che misura la bomba, no, per far vedere che fende questa cosa. E su, fuggore di biglia, Ma cosa è questo rumore? Che si sente? La pompa? No, la macchina è morta ancora. Hai dato le sebune del gasolio, se ci sei 5 minuti. Non io, no. Io sono davanti a un altro, mi pare che sia, capito, anzi, benzina stavo mettendo. Fa vedere che ne ha posto, ma manco un rifornitore dentro. Riesci a vedere. Sì, vabbè, va magari, ma l'ugore mi piglia, ma non ci ha pensato niente imbecille così, vabbè. Mi aggai, ma adesso se seduto, ma sì, un rossetto burro. Vabbè, cazzo. Manca pure c'è la bocca in culo. Cesso, una cosa vergognosa. Ah, una cosa vergognosa. Beh, scusa che scendo dalla macchina, al limite ti chiamo dopo se ci sei. Dai Mario, un pezzettino di strada ti accompagno, dai, fai con calma. Attenzione 10, c'è qualcuno qua su questo canale? Chi vuole entrare? Oh, yeah, finito, per carità. Mi ha mangiato 10 euro, Ti ha mangiato 10 euro? Brava, brava! Che distributore sei, mi ha detto, ma Sassari sì. Allora, qua è città mercato, ho messo 10 euro, prima 20 euro me ne restituiva, poi altri 20 me ne ha restituiti. Poi ho messo la macchina alle 10, è stata lì mezz'ora, deve essere si sono incassati dentro. Adesso stavo cercando il numero di telefono, ma non c'è nessuno, e non rispondo neanche al numero verde. Te immagini. Bastardi che non so altri. Ma non ce l'ha ricevuta, stampati la ricevuta e te la tieni. No, invece non mi ha lasciato manco la ricevuta, hai visto? Proprio quello è brutto, che non l'ha mandato manco la ricevuta. Quindi bisogna andare lì, fare la segnalazione e poi siccome sono ammassati bastardi e non avere la ricevuta non te ne danno. Però loro se ne accorgono che c'è la macchina incasinata, poi 10 euro dentro. Facci la fotografia, non c'era una fotografia di lì davanti, fai la fotografia e fai vedere che c'è la macchinetta intasata e c'è l'orario, cioè non c'è l'orologio, metti l'orario poi te la tieni, sta attenti poi se te li dasi. Non dice niente, no, perché è stata lì tricche, tracche, capito? E fotografia di cosa la fa, capito? Non c'è nero, non dà nessun segno, capito com'è? E quello è il casino. Vabbè, a me me l'avevano restituito, io sono andato, l'ha detto no, bello becca, 20 euro me l'aveva bruciati. Ma questo sicuramente si sono incastrati dentro, quindi non arriva a dirti per esempio che non c'è gasolio, che no, capisci cosa voglio dire? Adesso ti ha ricevuto, te la va quando poi non ti eroga tutto il gasolio. No, quando sei lì si sono incastrati dentro. Sì. Ho capito. Ma io, a parte non ci sono mai andato con il distributore, io vado sempre ai distributori, sempre ai subito, certo. Mi conoscono, per cui si fidano di me. Ma sento gente a parlare qua a Santiago Novo, però non riesco a capire quello che dico. Forse hanno lasciato il tappo aperto, aspetta un attimo. Ma Mari, stai parlando tu? Mari, tu stai parlando? Sono di uno spostato. Poi devo togliere i comandi dal microfono, gà. Forse eri in FM, buh. No, è in AM, ma era 80 invece 75. Ok, no, adesso già sei fuori. Sei 9.25, per essere di lì sta arrivando la bomba. Vabbè, sono sulla prima della galleria, da. Giustamente lì è meglio. Te ne sono tanto una buona, chissà chi era, però non ho capito. Mi ha fatto di mano, pensavo che avessi lasciato il tappo del gasolio aperto e invece deve essere qualcuno che mi conosce, ha fatto di mano e vabbè. Andare. Ha messo la galleria, ma non metto se allo Shant, cosa mette la galleria? Vabbè, ma sono uscito allo Shant, strada per Olbia. Ah, quindi sei già passato, cioè, ma dove sei? A che altezza sei arrivato? Così vedo i segnali. No, fratelli. Adesso sto entrando sulla 131. 9.20 qua, no? Per capire come si attenuano i segnali, cioè falli, mi rendo conto, per dire dove arrivo in certe zone dove tu magari sei più debole, perché tutta la zona, una volta che tiro le gallerie, scala e gioca, di lì arrivo a bomba io. Vabbè, fra poco ci passano le gallerie. Poi se passi sopra Carbonati, la striscia prima delle gallerie è ancora meglio, di lì sono diretto, arrivo pulito. Lì. Per forza devo passare lì, ho detto adesso fra un po' entro dentro le gallerie e quindi quando esco sicuramente inizia il pezzo poi più su dove tu arrivi meglio, sicuramente arrivi meglio lì. Adesso stai salendo, sei quasi 9.30, barica che a fianco a me. Sto avvicinando alla tua zona, quindi prima delle gallerie giustamente. Vabbè, penso che abbiamo qualche levante di questa radio qui in AM, più o meno, quindi un po' il segnale già viaggia. Infatti eccolo qua, di lato a sinistra. 9.40, ma stai dando potenza? È la potenza della radio, 50 watt qui in AM. Già si fa sentire, dai. Allora lì fra poco ti perdo perché sto per entrare dentro la galleria e poi sicuramente poi ti riprendo un po' più su. Sì, dopo la galleria sicuramente mi riprendi forte, dai, no, ti ascolto perfettamente qua. E io. Sì, 9.10 qua. Sì, ti ascolto. Anche se la voce è un po' metallica, boh, forse è come ti metti il microfono. Boh. Sembra che sei equalizzato, che c'hai tutti gli acuti sollevati con quel microfono. Cosa hai detto? Non ho capito mai. Ah, addirittura dal fondo, no, io ti tiro fuori bene, 9,5 sei qua. Come superi il cementificio, va nel pezzettino di coso, già ti prendo bene, in quel rettilineo dopo il distributore, di lì arrivano furti. Sì, no, io non ti ho mai perso, a certi momenti un po' più basso di 9, ma ti ascolto sempre, ti tiro fuori sempre. Magari l'antenna non è proprio l'ideale per questa banda degli 11 metri, è un compromesso, però già ti ascolto comunque. Le lampadine le metti normale, ma i fai all'oxeno, le hai messe tu le lampade o è nata con i fai all'oxeno? Lascia Billy, non serve a nulla, è solo problema. Sembra che illumino di più, ma tutta la luce è sparata, disturbi le altre macchine, illumini in profondità però tutto intorno. Quei fari, se non sono nati all'oxeno, è una scarica di gas, guarda, non sai quante gente è venuta a metterli, poi se sono pentiti amaramente, è tutto l'inizio, tutti, ah bello, si vede, ma cosa si vede? Poi li guardi sull'apparecchio e tutta una luce mal distribuita. Sì, ma è inutile che tu illumini a te e al bagli gli altri, tutti quei fari non sono nati, che macchina è la tua? Alfa, cos'è? Non sono nati, allora, li fai alla scarica di gas, li devi mettere sul faro nato per i fari all'ossigeno. Se tu prendi un faro all'ossigeno e ci metti il faro all'ossigeno, ti sembra che illumino di più, però disturbi tutto il mondo, cioè non è una luce tagliata per dire per non abbagliare. Tu ce li hai sulle abbagliate o sulle anabbagliate? Ok, a che punto sei arrivato adesso tu? Adesso sta aumentando la propagazione, stanno iniziando a coprirti, stanno chiamando. Tu dove l'hai fatta la salita del Codrogiano, se non ci devi ancora arrivare? Ti sto perdendo, ti sento Santiago 7, però c'è QRM molto alto e c'è un po' di disturbo di altre stazioni. Quando è così la propagazione è brutta, perché ci sono uno sopra l'altro, non si recupera di ruta. Attention my friend, do you copy Italy, Sardini Island, operatore Roberto, scusate, mi stanno chiamando questi, ti ascolto ancora comunque, cosa? Good evening Germany, my name is Roberto, città di Sassari, nord Sardini Island, QSL. Your name please, my friend. Repeat please, I don't understand. Marie, mi ascolti ancora tu? Marie, se stai parlando, perché qua ce n'è uno sopra l'altro, ci sono questi tedeschi che stanno parlando. Non ti sento più, Marie. Mi senti tu, mi ascolti? Sei in mezzo a QRM, non riesco a capire quello che stai dicendo. Ce l'ho altissimo oggi. Sei Santiago, però non riesco a capire quello che dici. Eppure a cosa? A Claudio, quando andava, l'accompagnavo sino a Perfugas io con la macchina sua. Vabbè, c'aveva un'antenna più performante forse di quella che hai tu. Vabbè, Marie, io ti saluto, provo a fare un giretto negli altri canali, ti auguro un buon viaggio e un buon lavoro quando devi farlo. Ciao, ci sentiamo alle prossime, se mi hai copiato. Dai, ti ho ascoltato, dai, qualcosina, ti ho tirato fuori. Purtroppo ho il QRM altissimo. Santiago, tu sei però la radio 2, ti do. E io, ciao. Attenzione 10, cambio. Attenzione canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Ora attenzione canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, cambio basso. Ora attenzione canale 10, se ascoltate l'isola sarda che chiama, cambio basso. Un pochettino di Di freschetto, ragazzi. Come si fa per riscaldarsi subito? E allora? A me muore, a me muore. Hola. Arto, uia. E cos'è? Niente, va. Continuate, vi ascolto, vai, ciao. Gappa, gappa. Ok, Giovanni, non c'è problema. E così, rega Giovanni, vabbè. Lascia vedere, installa. Dettagli. Un casino, Questa poi via spam. Casino, sta installando un programma. Gappa, gappa. Una meraviglia! Ammazzane in varia! Mi sono alternato tanto! No, negativo, nessuna alternata! Ehi, ehi, una volta me la sentivo! Siccome c'ho l'alimentatorino del portatile che sta caricando la batteria e se la sentivo l'alternata. No, negativo. Appagappo, ma sei uscito detto? Non di andi a cavare pure la roba con itto. Dove vuoi andare? Ormai sono andati lì al parco. Non è che sia chissà cosa. Sono andati, una birretta. C'è la Maria che sta facendo un paio due chiacchiere con delle amiche, da, degli amici. Gappa, gappa. Perché sto facendo una telefonata? Andiamo, andiamo, che è? Mi stai assordando con questo beat, allora ti rifaccio. Tiro, lo posso bugare, questo non si può le fare. Tanto è possibile, ma questo no. Va bene. 2009, non lo so, non bisogna dirlo, Antonio, si può mettere un tastino per escluderlo. Non lo so. Sto provando un computer chiamato Antonio, Portatile? No, fisso. Però poca memoria. Ma credo che si possa cambiare la memoria, devo sentirlo un po'. Buonasera Tino! Ciao Antonio, ciao! Gappa gappa! Bene, ti arrivo lì in campagna! Sì, 9-10 quasi, Così poco. Non sei col K? Sì. 9-10 solo. Con picchi positivi, dai. Non ci arrivi a 9-10. Ah, K, dai, già andava bene. Cosa stai utilizzando ora? L'87. Va bene. Sì, no, va bene, è che insomma non. Quello che mi hai chiesto ti ho detto. Gappa gappa. Andabex. Uia. Andare. Hola chicos. Ora ti mando una fotografia. Beh. Luca, attimino, che ti devo prendere una cosa. Gappa. Barracca. Frente a chi, oi? Quanto? Hai speso 30 chi, ma veniva di più. Cazzo, cazzo. Sai, giusto per un po' d'abitudine. Così vuole. Già vabbè, che caspita. Ma ne hai rifatto? Che cos'è? Di quella roba là, rifatto ne hai? Sì. Ma dopo di questo ne lascio una quindicina di chili, 10 chili per me, poi basta, mi fermo, Canta, oggi voce nei gigioni, mamma mia che buono! Non so. Vabbè, è importante che sia piaciuta. Gaffa, è piaciuta sì, era buonissimo. Sono contento, tu. Vuol dire che quando uno mangia con soddisfazione, che le piace la cosa, i soldi non sono mai buttati, capito? Gaffa. Quando la roba è buona a te, non venuta di fare, non fai. Tu sei pensa che non ho fatto in tempo a farla, che più la retta era già ordinata, senza neanche averla fatta, figurati. Sì, ma ci credo. Vabbè, due passaggi, attacco il K. Prova ad attaccarlo, vai. Così fa tutto quanto è in più o meno. Qua non arrivi a 9:20. K, dai. Già andate. Esci che attacco il K. Uia. Andiamo, vai, andiamo, cash. Hola, chicos. Prova, che ero distratto. 1, 2, 3, prova. E vabbè, adesso è andando di bongo, eh. Perché adesso sei più basso, però con i picchi raggiungi il segnale di poco fa. Preciso di sicuro, senza togliere né più né meno. Così è. Ma ho processo un attimo, eh. Sì. Ora, ora. Adesso è freddo, eh. Non è che deve scaldare più di tanto, cioè quello che penso io. Ehi, a me l'avviso che ha freddo, non è che sia chissà che cosa. Guardami un attimino, visto che siamo con la radio lì, a quanto sta andando, però guardalo bene, che devo fare una cosa. Sono 9:20 Radio 5. 9:20 e quando è importante bianca? Appena di meno, ma non è che sia... Quanto? Appena di meno? Come adesso? Vedi un po', guarda. Fai che sia picchi di 9:20. Da 9:15 a 9:20. Ah, aspettati. Allora. Ecco qua, guarda ora. Ora. Ma non è cambiato nulla. Ma si usi. Guarda la portante bianca così. È sempre così ti. Allora, niente. Perché poc'anzi erano, ma sono accorto che era troppo alto, erano 50 watt di portante bianca, cambiaci così e 20 watt, 25 watt, si usi più quasi 30. Va bene. Aspetta, faccio un'altra cosa, guarda sempre, metto 10 watt. Ecco qua, così sono 10 watt. Ora. Già c'è la differenza, già. Sì, 9:10, 9:15. Invece così? Va bene, eh? Sì, va bene. No, sto provando. Aspetta. È una rivoluzione mia, proprio leggera, quindi devo stare lì a regolare con le pinze. Cappa, no, va bene, cavolo. Spinge abbastanza, spinge. C'è una voce in più. Già lo so. Cappa. E Luca ne è uscito. Poco fa. Aspetta un attimo, c'è stato TikTok. Ci sono cose carine, ci sono anche belle signorine, belle veramente, in diretta si mettono. Ieri, ho visto una ragazza di fronte a me, stiamo lavorando noi, era fuori nel vecchio di casa sua, col telefono che prende si ballava, e tu hai visto per il TikTok. Ragazzina, sono... C'è una tipa che il padre lo fa a beffa, devo dire. A di voi lo va, adesso che si fa di qua tutto. Ce n'è uno col padre di fare di scherzi. Lo fa ridere. Ma chi? Calabrese? Non so chi è, di fare di scherzi, un addormentato di fronte al rettone, oppure lo sveglia con la tromba, o dipende, come di cose fa. Monte di qua. adesso non so cosa bere. Mi. Accetta, è così. Cappa, onesto, vero. Isidoro, sono Giulia. Andiamo e andiamo, che schifo, andiamo e andiamo. Carolano. Sì. Ma anche per le pancette hai venduto tutti? No, quello lì me l'ho fatto io per una l'ho fatto Antonio e una me la sono fatta io, poi ci abbiamo cambiato un pezzo con un pezzo l'altro, ci abbiamo diviso e ci ha come si fa da buoni amici. Vabbè, quando sei buoni amici si fanno queste cose. Certo, sono d'accordo con te. Certo, non perdo un amico per un pezzo di salsiccia. No, anche io Antonio sono abbastanza, quando mi serve una cosa a me, lui non manzi, alla grande. Addirittura mi ha portato lui, l'abbiamo fatto assieme, e poi mi ha portato anche due guanciali, ti puoi immaginare. Che va bene, dai. Sì, vabbè, poi li ho fatti io e stagionati, e poi l'ho chiamato e insomma, l'abbiamo divisi. Ti aggiungo due gli amici, la parola grossa, ma così la verità è io la mia amica non nasce, conoscete un bel amici proprio, anche un amico di zecca, un amico è come può essere un parente tuo, mi. Io all'epoca ce l'avevo, adesso non più, ma non me ne ha fatti nulla, non mi interessa, posso lascia verde proprio tu, vai fida di me. Vabbè, però dipende sempre tu. Ma visto che non è un vigliacco, non te le faccio altre cose. Ma Ghito che invece non ti puoi fidare. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, dici a Ghito. No, io ormai. Non interessa. Guarda, ti dico una cosa, eh? Mi credete, io ho più amici, vabbè, lascio molto meno. Sono Marina da tanti anni, però io frequentavo una chat e mi cercavo anche su WhatsApp, ci sentivamo, mi telefonavano, persone virtuali, pensavo, gente di Arabia non conosci così, che gente che conosci veramente, realmente, ma con di zeccani. Hai ragione. Allora, io devo essere sincero, io ne ho avuto uno unico, è inimitabile, non ce n'è più. Purtroppo è andato il direttore, però è così, come un fratello. Venga, alla fine non interessa. Va bene così. Tanto, va del bene e poi cosa andai, tutta. Poi le gelosie, mamma mia, per carità, puccio mi piace di proprio le gelosie. Non capisco la gelosia perché mettercela in certe cose, no. Non sono mai riuscito a capire.